Salve a tutti, sono qui insieme di nuovo ai nostri amici di Radio Big World. Io sono Stefania e questa è la quinta puntata del Il Popolo di Barabba. Vorrei iniziare a fare una riflessione con voi su quanto mi è capitato qualche giorno fa. Ero al semaforo di Montevarchi, quello grande per intenderci che porta in Piazza della Repubblica, e davanti a me c'era una macchina, semaforo rosso, davanti a me una macchina ferma con un SUV, uno di quelli che contano, quindi una macchina di quelle importanti, dove dentro c'era un signore, un galantuomo sicuramente, che a un certo punto scarta il pacchetto delle sue sigarette e butta dal finestrino quel nylon che copre il pacchetto delle sigarette. Quindi io mi sono sentita, ma non perché sono brava, perché mi ha dato fastidio quella cosa, no? Che lui buttasse qualcosa nella strada dove anch'io passo. E mi sono sentita così di suonargli leggermente. E questo mi ha guardato dallo specchietto retrovisore. Dopo ha buttato via quella stagnolina del pacchetto delle sigarette, no? L'ha ributtata via guardando nello specchietto retrovisore. E io gli ho risuonato. Immancabilmente poi è scattato il verde e questo mi ha fatto vedere il suo dito medio. Ora, io dico, che esempio può essere questa persona, questo galantuomo con questo SUV vestito molto bene per il suo figlio? Questa è una domanda che mi sono fatta. Io credo che con un esempio così suo figlio rispetto a queste tematiche abbia pochi anticorpi. E me ne dispiace per lui veramente tanto, perché oggi viviamo in un mondo che è destinato, ahimè, a diventare la pattumiera di quello che buttiamo. Quindi siamo praticamente destinati a vivere poi un domani in una pattumiera. Io non so, molti di voi avranno visto quando a primavera viene tagliata l'erba dei cigli delle strade, che cosa non c'è ai bordi delle strade. La plastica ci sta praticamente distruggendo, e molti di voi sapranno anche che cosa sta succedendo negli oceani. Isole di plastica, ma non sono isole così, sono proprio dei veri continenti questi. Il pesce che mangia la plastica, poi lo mangiamo noi, quindi noi ingeriamo metalli pesanti, ingeriamo questa plastica e probabilmente fra qualche 10-20 anni avremo dei problemi di salute legati proprio al nostro comportamento. Tutti sanno, sì, dell'isola di Midway, è quella più eclatante, su internet ci sono tanti video su questo, però forse in pochi sanno della più grande discarica al mondo, che è in Ghana, in Africa, nella capitale, ad Accra. Sullo sfondo dei palazzoni, dei grattacieli di Accra, c'è un popolo che vive praticamente nella più grande discarica del mondo di high-tech. Tutti i prodotti, naturalmente nostri, ovviamente del nostro luccicante e moderno Occidente, che quando il prodotto è obsoleto, non è più all'avanguardia, ritiene bene di buttarlo via. E dove va? Va ad Accra, dove minori, parecchi minori, bambini che non hanno ovviamente il diritto di andare a scuola, lavorano lì per smantellare i prodotti high tech e per ricavarne quei materiali interni che poi loro si rivendano per un euro probabilmente ogni 2 mesi. E questo è quello che stiamo facendo, per ritornare a come non abbiamo il rispetto per la nostra natura. Io ho detto che spesso vado nelle scuole a parlare con i bambini rispetto ad alcuni temi, soprattutto il tema dell'educazione. portando esempi di bambini che vivono in maniera diversa. Qualche tempo fa ho portato la storia di Biko, un bambino africano, in una classe quarta elementare di San Giovanni Valdarno. Ho fatto vedere praticamente la situazione di Biko nella scuola, ho fatto vedere in casa la situazione di Biko, la relazione di Biko con i giochi, ed è stato davvero tanto, tanto interessante vedere per esempio che Biko gioca con la palla fatta di stracci, ma gioca ugualmente e si diverte. Ho fatto vedere che Biko ha una divisa per andare a scuola e c'ha quella appunto, però a scuola ci va e studia. Biko che studia con un lapis e una pagina di carta e basta, però studia. Ora non voglio enfatizzare certo la vita di Biko e denigrare la vita dei nostri bambini, però ecco, c'è sempre una via di mezzo, purtroppo questa via di mezzo ancora non l'abbiamo trovata. Poi ho fatto vedere la casa di Biko, intorno alla casa di Biko praticamente non c'era, alla capanna di Biko non c'era niente, e c'è stato un bambino che mi ha fatto una domanda, dice: ma scusa, perché loro non hanno la spazzatura? In terra è tutto pulito? Poi ho sollecitato i compagni a dare una risposta. Chi diceva la sua, perché loro magari la tengono in casa, o perché ognuno portava il suo esempio. Poi tutto un tratto, in maniera davvero molto timida ma anche risoluta, una bambina si è alzata e ha detto: ma secondo me, perché Biko non ha niente da buttare. Per me questa risposta è stata veramente un qualcosa che mi ha fatto pensare, dico: ma guarda che bello. Cioè, questa bambina che ha avuto così questa intuizione è uscita dal suo io per entrare nella vita di Biko. Non è tanto la risposta perché magari ha visto i documentari, tutte le fotografie, le diapositive che avevo fatto vedere, ma lei è entrata dentro la vita di Biko e ha dato questa risposta. Cioè, non ha dato la risposta scontata del proprio vissuto, è entrata proprio nel personaggio di Biko, e questo è stato per me fantastico. Ho ringraziato la bambina, ma soprattutto qui vorrei ringraziare quei genitori che sono veramente, io penso, perché una bambina che fa una riflessione del genere, genitori veramente molto attenti. E con questo oggi concludo, vi ringrazio. Mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione riguardo a queste tematiche con le quali ho dialogato con voi stamani mattina. Grazie e alla prossima puntata.